America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Just throw it out the window. And nobody's gonna get hurt. I'm the only one that deserves. No, you don't deserve that. I'm gonna get hurt. You do not deserve to get hurt. Don't do this. All I did was love Nicole. All I did was love her. Quello che avete ascoltato è un episodio, direi storico per le cronache nere degli Stati Uniti. E la voce di O.J. Simpson, l'ex grande campione di football, mentre sul suo Bronco bianco il 17 giugno del 94 scappa su un'autostrada e viene intercettato in una conversazione con il newscaster televisivo, il quale dice: non andare, attenzione, rischi di farti del male. E lui, con questa voce che avete ascoltato un po' disperata, dice: io amavo Nicole, Nicole Simpson, che fu uccisa in un delitto che sembrava misterioso. Tutti sospettavano che fosse lui, O.J., ad aver commesso il crimine. Fu uccisa il 12 giugno del 94 insieme al suo accompagnatore Ronald Goldman. Ronald Goldman faceva il cameriere in uno dei locali divenuti più alla moda a quell'epoca a Los Angeles, una pizzeria italiana chiamata Mezzaluna. Perché rievoco questo episodio ormai quasi a 20 anni dagli eventi? Perché Mezzaluna ha rappresentato nella storia dell'evoluzione della cucina italiana in America una svolta con Aldo Bozzi, che qui faceva il rappresentante dell'Alfa Romeo, lo richiamarono in Italia, ma lui, che aveva preso un biglietto di solo andata, decise di restare e si inventò la pizzeria all'italiana in stile, diciamo così, moderno, e creò una catena che si chiamava e si chiama tuttora Mezzaluna. Ecco, da allora le cose sono andate avanti, ci sono state poi altre decine, centinaia forse, di pizzerie di quel genere della nuova cucina italiana, e adesso, secondo me, siamo in una nuova fase, in una terza fase, perché c'è una specializzazione per cui sono nate una serie di pizzerie che sono veramente pizzerie all'italiana specialistiche, pizzerie al taglio, fanno solo pizza, non fanno altre cose e fanno soprattutto una pizza di qualità superiore. Quali sono queste pizzerie? Ce ne sono parecchie. Adesso a New York, per la maggiore, per esempio, va Questé, che è stata fondata da zero qualche anno fa ed è una pizzeria, diciamo che rigorosamente alla napoletana, e ha avuto un grande successo. Poi ce ne sono altri, la Bufala, c'è Rosso Pomodoro a Italy, poi Questé, c'è stata una piccola polemica, c'è stato uno split, per cui adesso c'è anche Don Antonio, un cuoco americano, Michael White, che lavorava con Mario Battalli, ha aperto una sua pizzeria di nuovo di altissima qualità. Un altro napoletano che aveva lavorato a Napoli, una pizzeria, ha portato le tecniche di Napoli e ha aperto una pizzeria. Quando finiva la pasta, lui chiudeva la pizzeria. Potevano essere le 4 del pomeriggio, le 6, le 8, le 10, le 11, ma tutto era incentrato sulla pasta. In questa proliferazione di pizzerie ce n'è una che si chiama Pizza Roma, che è stata aperta un anno e mezzo fa, che ha fatto altrettanto successo. Ho letto sui giornali americani, dal New York Times al New York Magazine, insomma, hanno riportato storie legate a questa pizzeria, che poi si è creata questa idea anche di fare una birreria Roma. E ho con me ai microfoni di America 24 Andrea Franchini, che ha lanciato questa pizzeria. Andrea Franchini, romano, 29 anni, laureato alla LUISS di Roma, che ha lanciato da zero questa pizzeria. Buongiorno Franchini. Buongiorno. Allora Franchini, lei dunque è laureato, se non sbaglio, prima in economia a Tor Vergata, poi è laureato alla LUISS a Roma, quindi insomma ha fatto la specializzazione, e dopodiché lei molla una potenziale carriera brillante in qualche post laurea, viene a New York e si mette a fare la pizza. Ma i suoi genitori cosa hanno pensato? Hanno pensato che ero impazzito e pensavano che stessi scherzando inizialmente. E ha preso un biglietto di sola andata? Sì. Ecco, com'è vivere New York oggi per un giovane come lei, al di là del lavoro? New York è magica, e una volta che la vivi e la conosci non vorresti tornare sicuramente indietro nella città tua di origine. Pizza Roma, perché il nome intanto? Come nasce? Siamo 3-4 soci, tutti quanti romani, e abbiamo aperto 3-4 anni fa un primo Pizza Roma a Barcellona, successivamente un secondo, dopodiché abbiamo cominciato a Roma a aprire, diciamo, un po' pastor, un Pizza Roma temporaneo all'interno dei grandi eventi, all'auditorium piuttosto che durante il Tennis Master Series al Foro Italico, per poi arrivare a New York. Io devo dire, sono stato a vederla questa pizzeria perché ero un po' incuriosito, anche un po' così sospettoso. Devo dire, mi ha colpito molto la procedura con cui si fa la pasta. Ecco, quest'altro pizzaiolo che aveva aperto nel West Village e che chiudeva quando la pasta era finita, anche lui diceva la chiave è la pasta. Ecco, qual è la vostra tecnica? Noi abbiamo un impasto a lievitazione naturale che ha un corso di 96 ore. Questa lavorazione artigianale permette alla pizza di essere molto più friabile, gustosa e molto più facile da digerire rispetto a tutte le altre pizze. Ecco, poi si è inventato questa birreria, la Birreria Roma, devo dire, un'invenzione particolare perché è un piccolo buchetto in un cortile. Eppure mi ha colpito perché una serie di siti internet piuttosto conosciuti a New York, molto alla moda, come Grub Street, come Urban Daddy, hanno ripreso questa storia della birra. Perché ha colpito la fantasia degli americani? È stato consacrato persino dal New York Times, questo minuscolo cortile chiamato Birreria Roma. Sicuramente perché si accede attraverso un alley, quindi diciamo una... Un alley e un vicolo, esatto, un piccolo vicolo. Tra due palazzi, quindi è molto difficile anche da riconoscere a volte perché c'è soltanto una piccola targhetta fuori della porta, e perché devi chiamare un numero di telefono che poi è il mio personale per accederci. Quindi lei riceve la chiamata e qualcuno viene e dice io vengo, quindi insomma c'è un po' di conspiracy dietro questo. E sono i famosi posti che definiscono speakeasy, un po' come erano per tutti i locali durante il proibizionismo, che non avevano insegne perché vendevano illegalmente dentro i club, dentro questi bar, e vendevano appunto l'alcol, e ci si accedeva soltanto con un passaparola e con una parola in codice da dire alla porta. Chi viene in queste pizzerie italiane? Qual è la clientela? Noi siamo su Bleecker Street, quindi è una via molto particolare. Di giorno abbiamo molti turisti, soprattutto italiani, tantissimi francesi, che appunto riconoscono a prima vista il fatto che si tratti di una pizzeria realmente italiana e quindi realmente di qualità. Alla sera i turisti lasciano Bleecker e gli abitanti del West Village diventano i nostri primi clienti, sia giovani che persone di mezza età. Le pizzerie così restano con una matrice italiana, perché lei è italiano, siete riusciti, gli altri sono italiani, insomma continuate, diciamo così, a fare questo lavoro. Ma una domanda di fondo: perché questa pizza che noi abbiamo inventato in fondo, che è così italiana, alla fine da un punto di vista industriale ce l'hanno rubata? Cioè le grandi catene industriali, Pizza Hut, Sbarro, Domino, che hanno così, sono dei McDonald's della pizza, e lì si fanno i soldi veri. Ecco, lei ha un obiettivo di quel genere o restate artigianali? Noi siamo partiti con quello che è il nostro progetto e il nostro business plan, che prevede l'apertura di anche altri Pizza Roma. Se poi continuare ad essere un qualcosa di artigianale o un qualcosa di più industriale, e soltanto il tempo lo saprà dire. Diversi ristoratori americani con cui ho avuto modo di parlare e chiacchierare mi hanno sempre detto: Andrea, tu sai da dove cominci, ma non sai mai dove arrivi. E questa è l'America, secondo lei? Non so se questa è l'America, però questa è New York. E sarebbe possibile farlo in Italia, un esperimento così in cui ci si lancia in questo modo? Non penso, perché se oggi guarda la nostra realtà e stiamo vendendo la pizza a un grandissimo supermarket che si chiama Whole Foods Market, faccio un ragionamento inverso all'italiana, non penso che chiunque apra una pizzeria al taglio poi sia in grado di venderla alla SMA piuttosto che alla Rinascente o a qualsiasi altra grocery di turno. Senta, ci sono altri imprenditori italiani che qui a New York, noi abbiamo intervistato qualcuno, cercano di darsi da fare. Vi conoscete? Vi tenete in contatto? C'è un gruppo vivo, io sono amico personalmente di un altro bravissimo ragazzo che si chiama Carlo Passacantando. Carlo Passacantando, l'abbiamo avuto al nostro programma, e beh, per chi non se lo ricordasse, studiava a Columbia University, si è inventato un sistema di raccolta della biancheria degli studenti e ha creato una specie di piccola industria della lavanderia. Quindi lei si sente con lui, vi coordinate, fate cose insieme? Stiamo pensando di fare un progetto in comune, anche qui appunto per sottolineare nuovamente come la brillantezza delle idee italiane prevale su quella dei nostri colleghi americani. Carlo ha creato questo sistema di raccolta della biancheria di tutti gli studenti americani e quindi danno un servizio alla collettività universitaria. Io personalmente invece ho portato, diciamo, un prodotto che già esisteva ma sotto, diciamo, una nuova luce, un pochino più artigianale, un po' più autentica, che è la pizza. È stato difficile cominciare, mettere su questa operazione, investire? Quanto ci è voluto l'investimento iniziale? L'investimento, compreso tutto, anche il primo volo, quindi i primi biglietti, gli scouting e così via, è un investimento sotto il milione. Tutti i soldi che hanno dovuto investire. E quindi avete fatto una colletta tra genitori, amici, investitori, avete messo insieme questi soldi? Diciamo noi e i nostri genitori, più che altro. E papà e mamma sono più contenti e più tranquilli adesso? Direi di sì, anche se non è tutto oro quel che luccica. New York è una città molto complicata, soprattutto dal punto di vista della burocrazia, però ovviamente poi ci sono tante di quelle soddisfazioni e tante di quelle opportunità che una città come New York e un paese come l'America ti possono ancora offrire rispetto appunto alla vecchia Europa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi abbiamo parlato di nuovo, non lo facevamo da un po', di sogno americano, di biglietti di solo andata, e dunque ispiriamoci a una canzone che parla di sogni, degli ABBA. I have a dream. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!